siamo. Let's go. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Pierluigi Pardo arriva, qualche istante arriva. 800 24 00 24, per sentire dalla vostra voce cosa ne pensate dell'Italia di ieri sera, cosa ne pensate di tante delle vicende che ci sono intorno al nostro calcio, a partire ad esempio dal futuro di questa nazionale che improvvisamente si scopre con più possibilità di quanto si pensasse. Anche per sapere cosa ne pensate del triangolo Donnarumma-Milan-Juventus, perché ci sono alcune domande da fare. Oggi abbiamo fino alle 3:30, 800 24 00 24. Ci sono secondo me almeno due cose da dire su Italia-Germania di ieri sera, con la nostra nazionale che ha pareggiato con la Germania, e così insomma tiriamo tutti un sospiro di sollievo perché il timore di una brutta figura era concreto. La prima cosa da dire è che abbiamo fatto una buona partita, però dobbiamo anche non dimenticarci che avevamo davanti una specie di under 21 tedesca, perché quella era ieri sera la squadra di Löw. E la seconda è che ha ragione Ventura a dire di essere consapevole di avere una buona squadra, e però insomma sono tanti che continuano a vedere il bicchiere più vuoto che pieno. Allora, Ventura ieri su l'Italia, che è già una buona squadra e può diventare ottima. C'è grande voglia di partecipare, io ho detto una cosa a loro, ho detto che questo è un buon gruppo, ma da come si allenano, da come partecipano, da come chiedono, da come vogliono sapere, credo che stiano diventando anche una buona squadra e stanno lavorando per diventare un'ottima squadra. C'è del lavoro da fare chiaramente, però ci sono tutti i presupposti. Intanto Ventura ieri ha capito, credo definitivamente, perché poi con una battuta anche ironica ha fatto mezzo passo indietro, ha capito che sull'idea di anticipare l'inizio del prossimo campionato per dargli più tempo per preparare Spagna e Italia del prossimo 2 settembre ci sono pochissime possibilità di realizzazione, cosa che purtroppo è il vero. E quindi noi andremo con due giornate al massimo contro la Spagna il 2 settembre, una Spagna che ieri non ha incantato in Inghilterra, era sotto 2-0 e si è salvata negli ultimi 5 minuti. Tra le cose belle, positive, nel bicchiere mezzo pieno c'è sicuramente Belotti, che non è più soltanto un prospetto per il futuro, ma è già il centravanti del presente di questa nazionale, oltre che del Torino, e anzi il Toro farebbe bene a blindarlo, perché sono in tanti che cominciano a guardare le sue prestazioni. Belotti che sta allontanando anche la nostalgia di quell'altro che ieri sera era a San Siro a guardare da semplice spettatore Italia-Germania. Se io sto bene, io gioco ovunque. Quindi se non sono in nazionale non è perché c'è un altro o perché un altro gioca meglio. Se non sono là è perché probabilmente devo fare di più. Sono un tifoso della nazionale, quindi sì, vado a vedere l'Italia, ma non mi sono autoconvocato, vado a vedere l'Italia da tifoso. Poi penso che un giorno parlerò con l'allenatore o lui parlerà con me e vedremo. Però se non mi ha convocato ha i suoi motivi, se non mi ritiene pronto non ci sono assolutamente problemi. Poi ci sono anche gli idioti del fischio. Io leggo un messaggio: Mario, assiduo ascoltatore, quando penso che in Italia c'è gente che paga il biglietto per andare allo stadio e fischiare l'inno della nazionale avversaria mi viene il voltastomaco. E purtroppo hai ragione, non perdiamo occasione per non fare brutte figure. Ieri sera è stata certamente una serata pessima, l'ennesima per l'immagine del calcio italiano in giro per il mondo. L'ultimo tema, Donnarumma, che ieri ha ribadito, pensa soltanto al Milan, nel silenzio del Milan, perché non c'è nessuno, Galliani, Berlusconi, Fassone, Mirabelli, Cinesi, nessuno che si sia preso la briga negli ultimi 2 giorni di rispondere alla battuta di Marotta. Sentiamo Donnarumma. Tutti dicono che sono l'erede di Gigi, ma adesso penso solo al Milan, quindi penso sia solo l'erede nazionale, quindi penso solo al Milan e penso far bene al Milan e la squadra della che ho tifato sin da bambino, quindi sono già un top club e penso solo al Milan. Questo è il menù di oggi, 800 24 00 24, oppure se volete mandare i vostri sms e i vostri whatsapp 349 238 6666. Voglio sapere che voto date alla partita della nazionale di ieri. C'è anche il giallo della VAR. Ieri gli arbitri davanti al televisore hanno annullato il gol della Germania, che a mio parere era regolare, e se questa è la VAR partiamo bene. 800 24 00 24, c'è il traffico e poi torniamo. Tutti convocati. Qui è altro che ciupiti di Bobo Viel. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Convocati. 800 24 00 24, aspettiamo ancora Pierluigi Pardo, noi aspettiamo con calma, prima o poi arriva, vero Giorgio De Luca? Sì. Hernan Crespo, ciao. Ciao. Ciao Hernan, che idea ti sei fatto, se hai visto, ieri era San Siro, giusto? Sì, infatti secondo me Pier è rimasto là. È rimasto là, no, c'è, sono, è qui. Ciao Pier. Dai, ditemi se vi è piaciuta la nazionale ieri sera. Chi parte? Pier, Hernan? No, vai Pier, vai. Partita in linea, mi sembra, con quello che la nazionale ha fatto capire di poter valere in questo momento. Quindi, squadra tosta, squadra solida. Ha giocato un calcio dignitoso. È chiaro che le amichevoli già contano poco, c'era qualche assenza fra i tedeschi, insomma è troppo poco secondo me per potersi lasciare andare a chissà quale trionfalismo, però insomma credo possa essere utile nel percorso di crescita dell'autostima di questa squadra, insomma non aver perso contro la Spagna, non aver perso contro la Germania, anche solo da un punto di vista statistico, credo sia un dato incoraggiante, no? Per una nazionale giovane che si sta costruendo il futuro. C'è l'episodio del gol annullato a loro, confermato dalla VAR, ma veramente di pochi millimetri. Sì. E c'è il palo. Poi lo approfondiamo, perché se questa è la moviola, io ho l'impressione, sì. Giusto perché era un amichevole. Però Pier, Hernan, cioè noi avevamo paura, diciamo la verità, avevamo paura di fare una bruttissima figura contro la Germania, ma aveva paura per Primo Ventura. E invece secondo me il dato è che nel primo doppio impegno vero dell'Italia di Ventura vera, decontizzata con un altro modulo, con i giovani eccetera, in fondo non usciamo male. Hernan. No, guarda, io ho avuto la possibilità di vedere dal vivo ieri sera la partita. Allora, prima di tutto, credo che indipendentemente che siano amichevoli o no, vedere gente che non lo prende come tale è già un bel passo avanti. Perché indipendentemente che si possano dire prove o non prove, dal momento che uno si mette la maglia nazionale non ci sono amichevoli, almeno per quanto mi hanno insegnato a me con la maglia argentina. E io vorrei che l'Italia passasse anche questo messaggio. E questo già vedere un Bellotti, indipendentemente di che un po' sbagliato, no, ma che diventa contagioso anche per i suoi compagni. È vero che sta passando anche per un periodo di grazia dove qualsiasi decisione prenda è giusta, e questo già non è poco, ma contagia con voglia a vedere lo stesso Immobile, che anche lo stesso può anche sbagliare, in effetti magari tante volte ha peccati di freddezza davanti alla porta, e vedere gente che deve ancora, che vedi che hanno delle capacità importanti, ma hanno bisogno anche di tutte queste partite, non soltanto amichevole. Non so, io la prima cosa che mi viene in mente, lasciamo stare Buffon, Bonucci, gente che è già navigata, De Rossi, lasciamoli stare, adesso parlando degli altri, vedo Romagnoli che si vede che è un giocatore che avrà un certo spessore se continua la sua crescita, ancora ha delle sbavature, ma credo che sia un giocatore dal quale si può... Sì, l'Italia è tutto un progetto che deve crescere, però noi 2 mesi fa eravamo qui a cantare di un dopo Conte che era un deserto di talento e che probabilmente ci avrebbe consegnato a un declino. E io credo che invece, e questo è merito anche di Ventura, oltre del fatto che probabilmente invece i talenti c'erano, invece siamo arrivati a metà novembre e penso che il bilancio, e giustamente Ventura ieri in tutte le lingue insomma l'ha detto, il bilancio che rivendica sia un bilancio positivo fin qui, al di là di quello numerico, Pier. Sì, scusa, voglio rispondere a questo poi prima di Pier, scusami Pier. Allora, c'è una cosa che non dico che a me sorprende, perché non sorprende, però non dovrebbe succedere. Per esempio, ieri Ventura ha messo a centrocampo De Rossi Parolo. Non è la funzione del Parolo. Quindi io dico che quando tu sei in una squadra di tutti i giorni così, ci sta la squadra... Nel campionato ci sta inventarsi in qualche modo un ruolo per un giocatore per una circostanza. Quando sei in nazionale che hai la possibilità di scegliere, è vero che purtroppo non ci sia tanto, però dico uno di fianco a De Rossi che non sia Parolo, che non ha queste caratteristiche, che si è adattato, penso che si poteva far meglio, ecco, questo voglio dire, cioè si poteva scegliere adesso chi, ne parleremo, però dico non è possibile che non ci sia un centrocampista da giocare a due davanti alla difesa con De Rossi. Ma può essere Verratti? Ditemelo, perché tanti dubbio. Ieri si sono chiesti perché Verratti fosse in panchina, io credo anche per questioni fisiche, era un amichevole. Per carità, però probabilmente anche questo conta, però era magari una domanda a Ventura da farli, no? Perché ci si dovevamo inventare un ruolo quando sei un allenatore nazionale, no? Che dovresti scegliere e avere le cose molto chiare. Quindi mi sa che non Parolo è un centrocampo a tre, e quello è la mezzala che si inserisce. Pensare che Parolo possa avere le stesse caratteristiche di De Rossi, quindi a costruire il gioco, si fa un po' fatica. In effetti, quando La capacità di Rossi, che non la discutiamo oggi, ma è stata sottolineata, e perché c'è una bella differenza, un conto quando la prendeva De Rossi, un conto quando la prendeva Parolo. Certo. Succedeva che si stava molto più a Bonucci per cercare subito le punte, per saltarlo a Parolo in qualche modo. Sono finezze che credo ci sono incongruenze su cui bisogna ancora lavorare, Pier, ecco, sì. Però siamo anche all'inizio del lavoro. C'è chi dice, Bruno, dovremmo trovare un successore anche di De Rossi oltre che di Buffone, di tanti altri. C'è chi dice il primo tempo è stata un'anestesia e tutti dicono che è stato favoloso. Non è stato favoloso. Né l'una né l'altra. Non è stato favoloso, è stato più simile a un'anestesia che a qualcosa di favoloso, però è anche vero che c'è la forza dell'avversario. Insomma, noi, mi ricordo qualche giorno fa, discutevamo, c'era qualcuno, non mi ricordo se tu o Carlo, che eravate in qualche modo critici sulla scelta di giocare con amichevoli contro grandi nazionali. Era Ventura che era critico, però io penso che il test sia superato, sinceramente il test è superato, questa è una nazionale che sta rinascendo pian piano, con delle prestazioni adeguate, con un lento processo di costruzione di autostima, e pareggiare ieri è utile da questo punto di vista. Se avessimo vinto sarebbe stato anche meglio, ma insomma, comunque è quello che dice Hernan. Bisogna costruire anche in amichevole la mentalità, perché indossi una maglia di una squadra prestigiosa e te la devi sentire addosso sempre e comunque. Io volevo chiedere a Hernan che succede in Cina, so che è arrivato lui, hanno fatto una settimana di festeggiamenti, e poi come va con Infantino, prima di chiedergli la domanda definitiva sull'Argentina. Che ieri ha incontrato. Sì, in Cina è stato spettacolare, perché anche non me l'aspettavo una simile accoglienza, e quindi... È stato molto bello perché è un paese emergente, anche allo stesso tempo a son di soldi vuole farsi spazio nel mondo del calcio. Ci vorrà del tempo, perché non bastano i soldi, se no ci vuole le storie, ci vuole una cultura che loro dovranno imparare, ma allo stesso tempo c'è tanta passione. Questo certe cose io non riesco ancora a capire, magari è un problema mio, sai, sono sempre, per me è nato in Argentina, che ti riconoscono in Cina, cioè hai fatto qualcosa di così lontano e così grande, però fa sempre Hernan fa un po' il modesto, cioè in Cina mi risulta che ci sia stata veramente una settimana di celebrazioni tipo Santo Padre, ecco, mi sembra bene arrivato il Papa. No, ma adesso poi lui non lo dirà perché è ragazzo umile, però questa è la verità. E l'Argentina come ha messa? L'Argentina dopo stasera meglio, non bene, non è guarita, ma meglio, sai, quando tu hai un numero 10 che porta la faccia del capitano, che gioca nel modo che ha giocato ieri sera Messi, tutto diventa molto più semplice. Il problema se prende il raffreddore, perché se uno che mette una punizione nel croce dei pali, poi sul piatto d'argento li mette sulla testa a Prato il gol, il terzo gol è stato un capolavoro, perché è andato a rubare palla con una caparvietà, ha rubato, ha saltato due, l'ha messa dentro su Di Maria, che a porta vuota ha fatto gol. Messi, a che se ne dica, è inutile parlarne, è il leader in campo e lo è. Guarda, ti do due numeri. Non vuole parlare dentro lo spogliatoio, lasciamo stare. Ti do due numeri, ma immagino tu li conosca. In queste partite di qualificazione al mondiale, con Messi 4 vittorie su 5, senza una vittoria su 7. E la partita che hai perso con il Brasile, quindi. Con il Brasile. Però, al di là dei numeri, io ti voglio far sentire Messi ieri, che si è messo in piedi davanti a tutta la squadra, braccia incrociate, a spiegare che l'Argentina entra in silenzio stampa. Me lo fate sentire? Hola, buenas noches. Bueno, perdón el desorden, pero es chiquito esto y preferimos estar todos así y dar la cara antes de mandar un comunicado, porque es más frío y no nos tenemos que esconder de nada. Como ya saben, porque acá se sabe todo, estamos acá para comunicarle que hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa. Abbiamo tomato la decisione di non chiamar con la prensa, abbiamo preso la decisione di non parlare con la stampa. C'è una questione, poi l'approfondiremo, di un giornalista, accusa Lavezzi, insomma. La domanda per Crespo è questa: ma Messi, anche con una cosa così, si è finalmente preso la leadership della nazionale dello spogliatoio, visto che tanti lo accusano nell'Argentina di non essere decisivo, di non essere pesante come nel Barcellona? Ma è tutto relativo, dipende con chi, perché tutti si aspettano che Messi sia Maradona, in quel senso, no? Con tutti gli eccessi, no, Messi, piaccia o no, è vero che è nato in Argentina, ma è cresciuto in Europa, e quindi è diverso, quindi ha una leadership diversa, e quindi il problema è quello. Poi alla fine le criticano perché Cristiano Ronaldo magari ha vinto l'europeo, sì, ma il gol non l'ha fatto Cristiano Ronaldo, ha fatto un altro. Purtroppo l'Higuain o il Palacio hanno sbagliato, o il Agüero, nelle ultime tre finali, due di Coppa America, una di Coppa del Mondo, e i suoi compagni hanno sbagliato la puntata finale, se no stiamo parlando che Messi è un leader assoluto. Allora, e questo è il punto. Non è così semplice. Si è entrato in una situazione di grande difficoltà a livello di federazione in Argentina, perché vi posso garantire che è un caos, e quindi figuriamoci una nazionale così popolare con il miglior giocatore del mondo dentro e senza un'organizzazione dietro, è complicatissimo. Tutto diventa molto più difficile. Difficile anche mettersi la faccia. E costantemente messa la quantità di chilometri, perché ragazzi, stiamo pensando che per una partita di calcio i giocatori fanno minimo 28 ore di viaggio, solo minimo, sempre che non giocano in trasferta. Ma i Cardi la merita la nazionale, secondo te? Sì, è come tutto, cioè io vedo delle cose sinceramente difficili da capire, no? Però difficile da capire in quanto a qualità. Se uno pensa che Agüero e Higuain erano in panchina, giocava a Prato, sì. Però dopo, perché gioca Prato? Oltre che ha fatto gol, quindi bravo lui, è perché gli altri, che anche se sono delle mega star, probabilmente sta mancando qualcosa a livello animico. E quindi in questo momento, che la qualificazione mondiale in Sud America è molto calda, è molto molto complicata, perché se tu vai a vedere il blasone del Cile, Colombia, Uruguay, Brasile, Ecuador in altitudine, è complicato, è veramente complicato, e quindi se non, oltre le capacità, non metti un po' l'attitudine, è complicato. Allora Prato si è guadagnato il suo spazio e ha fatto una signora partita ieri, oltre ad aver fatto il gol. Sono delle cose assurde che succedono in Sudafrica. Quindi che non c'è nessuno che l'ha fatto fuori Icardi, dai, dite, nello spogliatoio. Come? Non c'è nessuno che lo fa fuori Icardi. Vabbè, io non lo so, questo non lo so. Dentro lo spogliatoio purtroppo non ci sono, no, più, nemmeno io, però non sarebbe male, non sarebbe male. Senti, il derby come lo vedi? Il derby è bello, il derby è bello perché il Milan si dovrà prendere le proprie responsabilità, e se uno va a vedere, nessuno si aspettava niente dal Milan e il Milan ha cominciato a fare risultati. Quando dopo la Juve si è dovuto affermare, ha perso. Quindi quando ha dovuto dire ok, siete protagonisti, quando nessuno si aspettava niente, hanno fatto benissimo. Quindi questo per la parte Milan sarà un grossissimo banco di prova. Per la parte dell'Inter, e l'Inter è questo, è l'Inter. Sembra che è un disastro, poi si sveglia e vince contro la Juve, poi torna con i suoi problemi. Oggi cambia allenatore, Stefano Pioli, grandissimo allenatore, grandissimo amico. Quindi nell'assurda della cosa io dico Inter. Dici Inter? Perché è assurdo, perché da Inter. Cioè, finalmente qualcuno che totale, si sbilancia, eh? No, è nel caos totale. Perché se no si chiamerebbe in un altro modo. Sì. E l'Inter è questo, l'anima dell'Inter è questa, nel caos tira fuori il meglio, ti sorprende nel bene e nel male, ti sorprende sempre. E canterebbero logica Inter amala. Sì. Possiamo anche mettere la musichetta. Dobbiamo fermarci. Sì. Io volevo capire che vuoi fare nella vita, però. Ce lo dici in 30 secondi, Hernan? Ce lo dici in 30 secondi? In questo momento sto aspettando, indipendentemente dalle divisioni, indipendentemente del paese, indipendentemente chiaramente l'Italia per me ha un sapore speciale, un bel progetto per continuare a fare l'allenatore, indipendentemente se C, B, A, ma gente seria, un buon progetto per lavorare, no? Indipendentemente dalla squadra che ti tocca. Grazie Hernan. Grazie Hernan. Un abbraccio a voi. 800 24 00 24, siamo in ritardissimo, chiediamo scusa alla borsa. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Rieccoci. Convocati. Come in tutte le cose della vita, chiedere è legittimo. Poi dipende molto da una serie di situazioni, certamente che noi accompagneremo con la volontà di trovare un accordo conveniente sia per le leghe, per la Lega e per la Federazione. Ovviamente tutti questi discorsi non starebbero in piedi se ci fosse stata o si potesse fare la riforma riducendo il numero delle società. Ecco, per adesso dobbiamo trattare e basta. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone. La mia era una mezza battuta, ho provato a dirla, ma è scoppiata. Cioè, io ho solo detto che sarebbe bello poterla avere, non è che ho detto voglio, cioè sono due cose completamente diverse. Sotto questo sole bello. Persona intelligente Ventura, Pier, ha capito che non era aria sulla questione dell'anticipo del campionato. No, però posso dire, guarda, io 5 minuti fa uno mi ha chiesto che dici di Fascetti che ha detto che Cassano dovrebbe smettere. C'è il podcast di ieri. No, appunto, c'è venuto uno, Maggio, un ragazzo anche simpatico, che Fascetti non ha detto questa roba, questo vale anche per me, vale per tutti noi. Cioè, dobbiamo essere tutti un po' meno cialtroni. Capisco l'esigenza di tirare per la giacchetta, di allungare certe dichiarazioni. Per esempio, ieri abbiamo sentito il podcast di Varotta, Insomma, sì, lui è chiaro che Marotta lì sta giocando, e quello è evidente. Ma nel caso di Ventura era una semplice richiesta. Insomma, non è, giocando no? Non lo so, Marotta. Giocando non lo so. No, gioca, però gli direi è chiaro che Marotta alludesse. Ma tu hai capito perché del Milan nessuno ha parlato in queste settimane, in questi mesi? Sembra che Donnarumma sia un problema posticipato, quando era una cosa semplice. C'era già un accordo per allungare di un anno a 1 milione. E invece il Milan si trova un po' con l'acqua alla gola. Tu hai... Io mi faccio questa domanda da 2 giorni, Pier. Perché? Beh, no, perché questa è una buona, cioè, il Milan domanda. Ce l'ha una dirigenza ancora, per un paio di settimane, poi sì, ne avrà un'altra. Il Milan ha una dirigenza, ma certamente in una fase non chiarissima dal punto di vista delle dichiarazioni, delle prese di posizione. Francamente, secondo me è ancora troppo presto per poter dichiarare aperto il caso. Cioè, il caso Donnarumma Juve, secondo me, è troppo presto. Detto questo, aspettiamo noi, il panettone. Noi abbiamo, secondo me, ieri, ad esempio, giustamente, non si poteva fare altrimenti, giustamente sottolineato, fatto sentire la battuta di Marotta, che lì è chiaramente una battuta di uno che ha voglia di in qualche modo è consapevole. Poi stiamo parlando di un dirigente talmente navigato che sta benissimo che se lui fa così se ne parlerà. Quindi, insomma, questo è il punto di partenza. Per ora, secondo me, ancora la situazione è pienamente nelle mani del Milan. Intanto ci ha raggiunto Marco Bellinazzo, che saluto. Ciao Marco. Eccomi, ciao, buon pomeriggio. Ci sono Dario dalla provincia di Bergamo e Massimo da Bergamo che aspettano, e quindi facciamo. Dario. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Volevo dire semplicemente, ieri sera ero alla partita e al di là dei soliti imbecilli che hanno fischiato, tutto il resto del pubblico ce lo siamo detti, quelli che eravamo lì attorno, abbiamo applaudito perché su un inno di una nazionale straniera è giusto e rispettoso applaudire, oppure starsene zitti ad ascoltare, cosa che in Italia non impara mai nessuno. Detto questo, la partita al primo tempo è piaciuta, anche se hanno giochicchiato. Secondo il mio punto di vista, nel secondo tempo hanno giocato meglio, con più convinzione, essendo ragazzi giovani. E una speranza che Donnarumma rimanga al Milan, essendo milanista. È tutto qua, vi ascolto per radio, vi ringrazio. Grazie Dario. C'è qualche possibilità che Donnarumma resti al Milan? Ma certo. Oppure no, ma guardo Marco Bellinazzo, perché io invece ho uno scenario diverso. Magari resta nell'immediato, però visto, come Mino Raiola tratta i suoi. Beh, Mino Raiola ha bisogno di movimentare i suoi, e questo non ci piove. Però è anche vero che Mino Raiola incassa anche con i rinnovi contrattuali, e quindi potrebbe essere interessato anche a far restare Donnarumma per i prossimi 3-5 anni. Parliamo di un ragazzo giovanissimo, per sua fortuna. È chiaro che però Mino Raiola vuole cosa? Vuole un quadro certo di riferimento, una proprietà, come dire, con dei programmi ben delineati, perché è giusto che sia così in generale, perché fa affari lui con proprietà che hanno programmi ben delineati. E quindi è giusto, insomma, in questo momento si attenda il closing, si attenda soprattutto, più che il closing, la disclosure su quelli che saranno poi gli investitori reali del Milan. Abbiamo novità su questo conto alla rovescia, 2-13 dicembre? Ma credo che la data più probabile sia il 2, però appunto parliamo di una trattativa lunghissima, estenuante, con tanti colpi di scena, per cui è stata fissata opportunamente una data ulteriore relativa al 13, che poi sono le date, diciamo, dell'assemblea e delle riunioni degli organi che all'interno del Milan dovranno poi ratificare l'affare e delineare il nuovo assetto dirigenziale, la nuova governance, il nuovo CDA. Io credo che nel caso del Milan si stia andando appunto verso questo closing, e sulla composizione dell'azionariato dobbiamo aspettarci qualcosa di diverso da tutto quello che è accaduto finora nel mondo del calcio, e non solo nell'ambito degli investimenti cinesi nel calcio, e cioè un investimento spiccatamente finanziario, se non puramente finanziario, in cui c'è un veicolo societario che detiene la proprietà del club, veicolo dal quale possono entrare e uscire gli investitori a seconda della convenienza, di quanto avranno ottenuto in cambio dell'investimento iniziale, magari anche con una quotazione in borsa quando la situazione generale e particolare del Milan lo permetteranno, e a quel punto quindi non avremo un investimento industriale su Inter, tanto per intenderci, ma un investimento finanziario in cui quello che sarà fondamentale sarà individuare un management forte che abbia degli indirizzi precisi e che segua questi indirizzi e quindi possa portarli avanti a prescindere da cambiamenti nell'azionariato, quindi in coloro che deterranno le quote. Ecco, questo è il quadro. Siamo a una prima volta assoluta, Pier? Sì, però potrebbe anche non essere male. Potrebbe anche non essere male, perché poi alla fine quello che conta è, come dicono a Milano, i danè. E quindi quello che conta, cioè forse il modello migliore dal punto di vista almeno teorico, potrebbe essere la cultura del calcio che abbiamo in Occidente unita ai capitali che arrivano da fuori. Quindi se l'investimento diventa più spiccatamente finanziario, un pochino meno manageriale, non è detto che sia per forza una tragedia. Sì, detto questo, una via di mezzo tra Pallotta e gli americani alla Roma. Detto questo, poi c'è sempre il problema di capire alla fine se uno ci mette i soldi, in che modo e in che forma vuole comandare, no? È chiaro che qualsiasi azionista, se tu oggi vai anche adesso ti compri l'azione di una società, decidi di partecipare al rischio, però è chiaro che quando l'investimento è tale da prendere la maggioranza o comunque una quota così importante, vuoi anche avere inevitabilmente voce in capitolo. Quindi questo è il vero tema, però io credo in assoluto, io l'ho detto tante volte pubblicamente, io penso che Galliani sicuramente sia, dico Galliani per dire questo pezzo di mondo, cioè Galliani, Moratti, i dirigenti che ci sono oggi in Italia, pensate se la Juve venisse scalata, cosa impossibile da uno sceicco, comunque l'esperienza, il know-how che ha il presidente Agnelli, che ha Marotta, che ha Galliani, che hanno questi personaggi qui, è quasi imprescindibile, quindi quello che è mancato ultimamente al Milan probabilmente è stata la quantità di risorse che c'erano prima. Ma questo sicuro negli ultimi 5 anni, secondo me negli ultimi mesi è mancato anche qualcuno che prendesse delle decisioni. Però traffico, poi ne riparliamo. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Convocati. Ma sicuramente in funzione di quella partita sarebbe importantissimo, no? Avere qualche minuto in più nelle gambe, però insomma il calcio adesso sappiamo com'è, no? Il 13 agosto stai ancora in giro tra Cina, America, Arabia a fare soldi, perché poi è anche quello, no? Le squadre guadagnano anche in base a questo e noi non guadagniamo in base a quanto guadagnano le squadre. Sarà difficile secondo me trovare un accordo, però in funzione di quella partita sarebbe ottimale, sì. Questo De Rossi che dice una banalità, cioè che i soldi muovono il calcio, anche quello delle nazionali in realtà, Marco, no? Beh, sì, sta diventando sempre più un business anche quello delle nazionali, come abbiamo raccontato sulla pagina di Sport Business questo fine settimana, perché le nazionali muovono quella che è la passione fondamentale poi del calcio, no? e in più c'è l'identificazione collettiva, popolare. Intorno alle nazionali le federazioni stanno cercando di costruire un business, lo stanno facendo molto bene naturalmente in Inghilterra, in Germania, in Brasile, anche la federazione italiana si sta muovendo bene. È evidente però che qui c'è una grande contraddizione tra le nazionali e i club, che sta per scoppiare. Anche in relazione al fatto che gli europei sono stati portati a 24 squadre, i mondiali si parla di un'edizione a 40, addirittura a 48 squadre, si parla di tornei negli anni dispari per riempire l'estate, ci sono le qualificazioni. E chi paga non è Pantalone in questo esattamente, caso. Esattamente, i giocatori sono di dipendenza dei club, e i club possono certo ricevere degli indennizi, possono ricevere dei premi dalle federazioni, dalla UEFA, dalla FIFA, ma sono loro a rischiare in primis. E questa gli ultimi recenti grandi infortuni, credo, sulla quale non si troverà mai un punto d'accordo che vada bene per tutti. Però credo che bisogna trovare delle soluzioni pratiche, noi abbiamo provato a delinearle, cioè anche semplicemente emulando gli altri sport, magari concentrando le qualificazioni in estate invece di fare altri tornei, le qualificazioni per i grandi eventi, per esempio dando la possibilità ai grandi giocatori di non rispondere magari proprio a tutte le convocazioni, o alle nazionali con il miglior ranking di fare minori partite di qualificazione, anche se sono poi quelle che muovono di più il business. Beh, insomma, certamente delle soluzioni vanno trovate, perché i danni che possono essere arrecati ai club. Da partite della nazionale nelle quali i loro giocatori si infortunano, e in Italia Marco Melinazzo sta ancora piangendo per Milik, non solo per Milik, è ancora vestito a lutto. È evidente, ragione. È evidente che sai, no, ma è vestito a lutto veramente, qui col completo scuro. L'assicurazione che può arrivare a un club non compensa mai, cioè veramente, certo, è un brodino, ecco, rispetto a quello che consideriamo, il danno economico che puoi avere in una stagione. Consideriamo, no? Pier, che tra l'altro, se sei infortunato solo per 27 giorni, per esempio, l'assicurazione non scatta. Dopodiché può arrivare al massimo a 5-6 milioni. E però mettiamo l'ipotesi in cui una squadra ha un proprio giocatore fondamentale, come appunto il caso di Milik, visto che è stato evocato, non riesce a qualificarsi in Champions, il danno è di non poter accedere a un bottino che sia almeno di 30-40 milioni. Guarda, io credo che tanto non si farà mai, ma io credo che, l'abbiamo detto tante volte, anche gli ascoltatori ci scrivono che la cosa più saggia sarebbe accorciare la durata delle stagioni, separare il calcio dei club dal calcio delle nazionali, e preparare degli slot che possono essere o subito prima o subito dopo l'estate, di preparazione agli anni dispari per i grandi eventi come europei e mondiali. Questo sarebbe un sistema veramente, insomma, molto più sano, molto più saggio. Poi è ovvio, ci può essere l'infortunio di sei mesi, per cui se Tizio ti si fa male in nazionale il 14 giugno comunque torna a dicembre, però diciamo che questo tipo di contaminazione, questo tipo di scambio di piani fra calcio nazionale e calcio del club sarebbe molto meno probabile, e eviterebbe un sacco di problemi. E poi, secondo me, sarebbe anche più bello, più giusto. Insomma, sappiamo quanto influiscano le trasferte intercontinentali, per esempio, i giocatori sudamericani nella storia di una stagione. Poi, ma poi, Pier, il prossimo è un anno dispari. A gennaio vedremo il paradosso della Coppa d'Africa, che appunto spoglia i campionati nazionali per più di un mese nel cuore delle stagioni, ed è davvero un controsenso. Riusciamo in un minuto, Rocco da Enna. Rocco? Sì, ciao. Eccoci. Sono Rocco, tifoso del Milan, chiaramente. Sì. No, se non sarebbe il caso di andare a capire se, quando si tratta dei vari trasferimenti tipo Donnarumma, che probabilmente la Juventus gli fa un grande appetito. Il signor Marotta magari si va a inserire in una situazione di defiance delle società, e quindi magari approfitta in un momento di non stabilità delle società. Fa il suo lavoro, cioè, fa semplicemente il lavoro di un dirigente sportivo. Però, magari può essere inelegante, io non lo so. In realtà, secondo me, fa semplicemente il suo lavoro. Insomma, andiamo a guardare il fatto di Higuain, che insomma in un mese si è aggiudicato Higuain quando il Napoli è in corso per vincere lo scudetto. Poi a un certo punto, un mese dopo, viene annunciato. Rocco, funziona così il mercato. Tra l'altro, se ci sono le clausole, chi le mette si mette nella condizione di dover vendere. Abbiamo il GR, Pier, a domani. Ciao ragazzi. Ciao. Pier, saluto anche Marco Bellinazzo. A presto. Sabato e domenica Sport e Business sul Sole 24 Ore, dedicato a tutti gli approfondimenti sul calcio e gli sport dal punto di vista economico e finanziario. 800 24 00 24, poi parliamo di Messi e della VAR, perché io non ho ancora capito se il gol della Germania era in fuorigioco o no. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole, nuova meta, stessa passione. Pigi il verde, ma subito, te ti addormenti, pigi il verde, dai. Tutti convocati. Sì, non io, ma i due, certo, comunque assistenti dell'arbitro, che in 5-6 secondi sono riusciti comunque a valutare che al momento del passaggio un ginocchio potesse essere veramente più avanzato della linea del pallone, per cui sono riusciti a constatare e confermare il gol annullato che stiamo rivedendo. Quindi a VAR a regime si sarebbero persi 6 secondi soltanto. Sì, purtroppo oggi in questa situazione non abbiamo ancora una certezza, per cui non abbiamo delle linee disegnate sul campo, l'assistente dell'arbitro deve ancora interpretare. Questo era Busacca ieri sera a San Siro, i microfoni di Rai Sport. Quindi con la video assistant referee a regime si sarebbero persi solo 6 secondi per dire che il gol della Germania era in fuorigioco. Però io devo dirvi la verità, io non sono mica ancora convinto, e oggi anche qualche giornale, soprattutto la Gazzetta dello Sport, ha detto ma. Luca Marelli, ciao. Ciao, bentrovati. Ma posso essere un po' critico nei confronti della persona che rispetto, per carità, che Busacca, però ha detto una sciocchezza. 5-6 secondi per che cosa? Per riavvolgere il disco, probabilmente, per riavvolgere il nastro, non lo so, non ci vogliono 5-6 secondi. Beh, non esiste in 5-6 secondi prendere una decisione così complessa, anche soltanto per tracciare una linea immaginaria. Altro che 5-6 secondi, ce ne vogliono almeno una ventina. Che un giorno ci sarà, ci ha detto, verrà fatto. Per carità, il problema non è il gol della Germania in fuorigioco, no, poi era un amichevole, chi se ne frega. Il problema è che stiamo testando quella che sarà, quella che del Bar Sport viene chiamata la moviola in campo del futuro. Così certo, ci capiamo tutti, anche se in realtà è l'assistenza al video di due arbitri limitata a una certa casistica di episodi. In questa casistica c'è certamente un gol segnato o meno in fuorigioco, come esatto, quello di ieri in Italia-Germania. E io però ho l'impressione che si stia facendo un po' di confusione se si pensa che un episodio come quello di ieri possa essere liquidato così come è stato liquidato il giorno in cui conterà qualcosa. Esatto, bisogna togliersi subito da un impiccio logico. Allora, il fatto è che l'episodio di ieri sera dimostra che cosa? Dimostra che anche con la virtual assistant referee non ci saranno certezze in alcune circostanze. Tanti fanno un parallelismo tra il calcio e il tennis, e non è corretto fare un paragone di questo genere per quanto riguarda le moviole in campo. Il motivo è molto semplice: il tennis ha delle linee fisse, nel calcio le linee fisse sono quelle laterali, ma in caso di fuorigioco la linea è mobile, ed essendo mobile comunque è soggetta a delle variazioni di qualche millimetro o di qualche centimetro. Perciò nell'occasione come quella di ieri sera, la interpretazione, o anche guardando le immagini, potrebbe comunque essere differente, perché qua stiamo parlando veramente di millimetri che sono dati da una rotula che magari è avanti rispetto alla coscia sinistra di un giocatore. Ecco, stiamo veramente parlando di spazi infinitesimali. Basta anche solamente che la linea elettronica tracciata non virtualmente, non certo fissa sul campo, sia spostata di 2 mm per cambiare completamente una decisione. Ecco, dobbiamo metterci in questa ottica. La virtual assistant referee sarà molto importante perché eliminerà molti casi particolari, molti casi specifici, probabilmente eviterà di assegnare rigori inesistenti o di assegnare rigori evidenti, ma in questi casi ci sarà comunque uno spazio di discussione e di valutazione personale. Cioè, dimentichiamoci il grande fratello che toglierà il gusto della moviola del giorno dopo. Ma la moviola ci sarà sempre. Ci sarà sempre, soprattutto, anzi ti dirò di più, in certe circostanze la virtual assistant referee aumenterà le polemiche. Perché oltre alla valutazione sul momento, che può essere in qualche maniera scusata, verranno comunque accusati gli arbitri che hanno deciso al posto dell'arbitro in campo. Perché verranno accusati di aver valutato non rigore, un rigore che qualcuno vede evidente, e aver valutato come non rigore qualcuno che il rigore lo vede evidente. Cioè siamo sempre lì. La questione è che verranno tolti gli errori macroscopici. Non ci saranno più, per esempio, come abbiamo analizzato assieme, non ci sarà più l'Inter giocare in 11 a Bergamo contro l'Atalanta per il fallo di Medel. Queste cose, un gol di Lulic, Lazio Sassuolo, esatto, un metro in fuorigioco. Però ci sono tutta una casistica. Del resto abbiamo scoperto, Luca, che anche la goal line technology può essere oggetto di contestazione. L'abbiamo scoperta quest'anno con la chiamata su un gol non gol del Chievo, che devo dire anche lì, insomma, era fermo al punto giusto, il frame, il pallone, l'immagine, chi lo sa. E chi lo sa, ma soprattutto perché, ricordiamoci, l'essere umano è fallibile per definizione, lo strumento tecnologico si può rompere per definizione, e perciò non ci sarà mai la certezza su un episodio, sulla posizionamento di una linea o sul posizionamento del pallone. Nella nostra realtà fattuale non esiste qualcosa che sia infallibile, non esiste che sia un macchinario che sia un essere umano. Perciò alla fine elimineremo tanti casi grossolani, ripeto, ma gli episodi sui quali si discute sono quelli sempre molto al limite, e comunque rimarranno al limite perché subentra una valutazione personale in alcune circostanze, e subentra invece una questione di millimetri che spesso anche la tecnologia non può eliminare. L'abbiamo visto ieri, anche sì, perché secondo me il gol è regolare. Bah, guarda, il sospetto c'è. Poi ci scrive un amico dicendo: perché non riuscite a capire, l'arbitro prende una decisione e gli assistenti alla VAR intervengono solo se c'è evidenza di errore. Insomma, esatto, tutta roba che viene sperimentata. Mi sembra ci sia un po' la fretta di dire entro 5, 6, 7 secondi, perdere poco tempo per non fare del calcio uno spezzatino. Esatto, visto che siamo nella periodo della sperimentazione, sarebbe anche più consono essere un minimo prudenti. Non ha senso affermare che un episodio di questo genere sarebbe stato deciso in 5, 6 secondi, perché alla fine stiamo facendo il gioco di quelli che fanno il populismo, dei populismi, no? Di diffondere notizie che sono palesemente false, che possono magari tranquillizzare o far passare come una grandissima innovazione qualcosa che lo è sicuramente, ma non in questi termini. Parlare di 5-6 secondi per decidere è una follia, perché in episodi di questo genere ci vorranno 30, 40, 50 secondi, il tempo giusto che serve per prendere una decisione che non sia frettolosa comunque. Sì, sperando che poi funzioni tutto e che non si sbagli, esattamente, sempre in attesa che cambino anche il fuorigioco e lo rendano più semplice, esatto, cosa che potrebbe anche accadere. Grazie Luca. A voi. Grazie a voi. Luca Marelli. 800 24 00 24. Un altro Luca, ad esempio, scrive: la regola è assurda, deve valere il tronco del giocatore, altrimenti è troppo difficile. Beh, la chiamata di ieri per l'assistente era assolutamente impossibile, visto che stiamo parlando di una rotula. Massimo da Bergamo. Massimo, buongiorno. Niente, volevo parlare di Donnarumma. Sì. Allora, prima cosa, qualcuno del Milan ha parlato, e a Galliani due settimane fa, e ha detto che giustamente lui, essendo ad in pectore, ma comunque a tempo determinato, può parlare per quello che sarà fino a quando lui se ne andrà, giustamente. Sì, però è un anno che Donnarumma gioca ed è da 10 mesi, sette mesi, che potrebbe allungare il contratto, sì. Ma è un contratto che può essere comunque allungato al compimento dei suoi 18 anni, se non sbaglio. No, può anche essere allungato prima per un anno ancora, perché questo era triennale, scade nel 2018. Dal 1 luglio dell'anno scorso poteva essere allungato ancora di un anno fino al 2019, per poi consegnare una situazione un po' meno acqua alla gola a chi arriverà dopo, a Fassona, Mirabelli, ai cinesi, ai marziani. Questo io sto dicendo, Massimo. Perfetto. No, poi dicevo anche che Marotta, c'è poco dal ghignazzare, perché caso Pogba insegna che se la Juve può offrire 5, c'è sempre dietro un Manchester United, un Real Madrid, un Barcellona, un Chelsea che possono offrire 10. Quindi alla fine non credo che sia proprio detto che vada la Juve. Poi se il pizzaiolo olandese ha intrallarsi con la dirigenza juventina, questo è un altro pizzaiolo discorso. Pizzaiolo olandese, ovvero Mino Raiola, fa i suoi interessi. Tra l'altro mi pare che in questa fase sia quello più silente di tutti. Che non so se sia una buona notizia per il Milan, per la Juve o per chi eventualmente ha messo gli occhi su Donnarumma. Enrico dalla provincia di Milano. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare di Ventura. Ho una sensazione, il fatto che venga un po' criticato per alcune cose, vuoi per il gioco, vuoi per i giocatori, la posizione dei giocatori, ma la sensazione è che a tutti va bene, ma siamo qua a aspettare che gli vada male per dire: però lo sapevamo, non ha esperienza internazionale. Ho un po' quella sensazione lì. Io invece ho la sensazione che da in queste due settimane si sia preso un po' l'Italia, finalmente si sia scrollato di dosso anche da una certa timidezza in partenza, e qualche risultato anche gli ha dato ragione. Ad esempio a me il primo tempo con Liechtenstein è piaciuto molto, perché storicamente la nazionale italiana quelle partite lì le ha sempre sofferte. Poi non è arrivata la goleada, però a me il primo tempo è piaciuto molto, così come è piaciuto ieri sera il secondo tempo e complessivamente l'approccio dell'Italia. Ripeto, giocavamo contro una specie di under 21 tedesca, anche noi avevamo qualche esperimento in campo, mi sembra che complessivamente si possa essere assolutamente contenti, un po' come l'Argentina. Indicazione dell'arbitro. Leo le pegò. Che Rassi entra in linea, Messi che va a attaccare, chi la malparà lo va rilevando la pelota, attenzione che la sinistra. Dell'Argentina! La definió el Oso, 2-0! Va a recuperare la pelota Messi, se puede venire il tercero, attenzione Leo, toccò Pipita Di Maria, gol! Di Maria, 3-0. Hola, buenas noches. Bueno, perdón el desorden, pero de chiquito esto. Y preferimos estar todos así y dar la cara antes de mandar un comunicado, porque es más frío y no nos tenemos que esconder de nada. Como ya saben, porque acá se sabe todo, estamos acá para comunicarles que hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa. Obviamente ustedes saben por qué, ¿no? Notte Argentina, carissimo Daniel Martinez, ciao. Ciao, che tal, come state? Tutto bene? Bene, bene. Notte Argentina sempre. Tutto un po' meglio, molto eh? Molto Argentina, no? Sì, un po', diciamo che è tornata l'anima al corpo, si può dire. Però è tornata l'anima per al risultato, corpo, sì. Non per l'ambiente, diciamo così. Ma che succede? Abbiamo visto Messi fare il capopopolo davanti ai giocatori schierati, braccia incrociate. Lo sciopero, noi italiani lo conosciamo, 1982 in Spagna, ha portato bene, ha portato il titolo mondiale, allora il capopopolo era Zoff. Sì, succede una cosa, diciamo, è stata la stampa molto dura con l'Argentina. Argentina è un paese nel quale quasi tutto è diviso, no? Peronismo, radicalismo, popolo, militari, Maradona, Messi, prima era Goccini, Alonso, e nel calcio e così via. Sempre abbiamo delle profonde divisioni, se no saremmo un popolo, un paese, come paese saremmo veramente molto molto forte. C'è una forte individualità o individualismo, non so come definirlo in generale, e quello fa che con grandissimi giocatori, veramente grandi giocatori, il bottino a livello di trofei negli ultimi anni sia stato veramente scarso, ma non di prestazione, ma non di possibilità, perché si è arrivato sempre a finali, perché anche se queste finali sono state perse, che non sarà di quello che si dovrebbe giudicare. Allora, senza girarci troppo intorno, Daniele, se tu hai il giocatore migliore al mondo, il 10 che ricorda Maradona, che è Messi, ovviamente ti aspetti da argentino di vincere il mondiale, di vincere la Copa America, di vincere tutto. Beh. Vabbè, però se non lo vinci ti aspetti di arrivare in finale, e alla finale si è arrivato, perché la differenza tra vincere e non vincere può essere molto molto breve. Io mi ricordo che col Maradona, il miglior giocatore al mondo in quel momento, l'Argentina poteva rimanere fuori del mondiale al che è arrivato alla finale, e ha perso col Maradona in campo qua in Italia, quando ho conosciuto l'Italia nel 90, con un rigore che sbagliava niente poco di meno che Maradona. Ve lo ricordo così per dire che dopo è stato Goicoechea a salvare Maradona. Vi ricordate di Goicoechea? No, il vasco Goicoechea che lo ha fatto male, il portiere Goicoechea, sì. Sergio Goicoechea ha salvato Maradona, ha salvato l'Argentina, ed era il supplente di quella nazionale, perché il titolare si aveva fatto male, era Pompili. E chi salva l'Argentina di Messi? Prato? Il cammello, Prato. Come? Chi salva l'Argentina di Messi? Prato. No, ci pensa Messi. Vedi come sono le cose. Prato sta giocando bene, che lo abbiamo visto anche un annetto qua nel 2011 in Italia, no? Lo abbiamo avuto. Abbiamo intravisto, sì. Intravisto, sì, un po', però Lucas Prato, il cammello, il camello, come le diremmo in Argentina, ha fatto differenza, ma ha fatto anche un cambiamento importante. Contro Brasile ha giocato un 4-3-3, contro Colombia un 4-2-3-1, con il miglior attaccante del mondo dietro la punta, che in questo caso era Lucas Prato. È vero che ha tolto Zabaleta, Enzo Perez e Higuaín del titolare. Ha giocato con Mercado, con Vanega e con Lucas Prato. Però ha fatto altri grandi cambiamenti. Nel fondo il calcio si vince per un stato di animo. E la lotta, per completare la risposta che ti stava dando, perché cosa è successo? Puntualmente è successo che un giornalista, che un relatore di calcio, sì, un narratore, un radiocronista, ha detto che l'Avessi è stato, non stava neanche nella panchina quando era stato convocato sorpresivamente e messo in panchina ante il Brasil sorpresivamente, perché trovato a fumare un spinello in concentrazione. E questo il giornalista lo ribadisce ancora dopo la presa di posizione della squadra argentina. E come sempre, la vittoria è la divisione, il trionfo è la divisione, l'Argentina è la divisione. È il destino dell'Argentina. Grazie Daniel. Un destino sudamericano, grazie, sì, a voi per la convocazione, un abbraccio. Non solo Argentina, grazie Daniel, un abbraccio a te. Non solo un destino dell'Argentina. Fatemi sentire a proposito di divisioni Galliani sul derby di domenica sera. Montella è un bravissimo allenatore, se no non l'avremmo scelto, quindi siamo felici della scelta che abbiamo fatto, e Pioli è un buonissimo allenatore, altro allenatore che io stimo molto. C'ho una mia classifica degli allenatori italiani e Pioli è fra i primi. Li stima tutti, gli allenatori italiani. Sandro Sabatini, ciao. Ciao, li stima tutti i Galliani, c'ha una classifica sterminata. Beh, la classifica non ha detto nella sua classifica. È la classifica. No, c'è la zona, c'è lo scudetto, la zona Champions, la zona Europa League. E quindi, però che Pioli sia un bravo allenatore, secondo me non deve sorprendere, o meglio, sorprende soltanto chi si ferma all'apparenza. Pioli i risultati li ha fatti, soprattutto nei primi anni, va detto, mi riferisco a Bologna e Lazio. Però è comunque uno che anche tra i colleghi è molto quotato, molto considerato. Sì, tanto è già al punto di non ritorno, perché il derby di domenica sera, derby che tra l'altro sarà visibile anche in Ultra HD su Mediaset Premium, è già un punto di non ritorno. Quando tu vai al derby a 8 lunghezze dai tuoi cugini, guarda, allora tu conterai con i 4K, il derby, sì, tra HD, conterai sia i punti di... quelli però si vedono anche in SD, sì, no? I punti di distacco tra Milan e Inter. Si vedono anche sul giornale. Si vedono anche sul giornale, che sulla carta si basta. E invece con il 4K vedrai anche come vanno i capelli di Pioli, che un pochino l'ha persi rispetto all'ultima volta che era in pubblico. Mi sembra che abbia quel di solito problema. Si imbiancano quando vengono a Milano. Sì, infatti, però credo che lui a questo in gran parte del percorso l'abbia già compiuto, quindi non gli resta molto da peggiorare in questo senso. Al di là delle battute, credo che sarà un derby non veritiero, ecco, per Pioli, nel bene e nel male. Nel bene perché comunque, come si dice da prima che ancora che inventassero la radio, ogni partita fa storia a sé e ha maggior ragione un derby. Nel male perché obiettivamente a Pioli non si può chiedere granché, considerando che ha 3 giorni per allenare la sua squadra nel derby, e ora siccome De Boer non ce l'ha fatta in quasi 3 mesi, insomma non credo che si possa chiedere a Pioli di fare il mago in 3 giorni, però a medio termine, non a lungo termine, a medio termine secondo me il lavoro di Pioli verrà fuori, emergerà, e anche l'Inter riemergerà. Non so per arrivare dove, credo che la zona Champions sia già abbastanza distante, però di sicuro riemergerà, secondo me. Sì, prima Hernan Crespo ci diceva, questo è il classico derby da Inter, quando ci arrivi dentro un casino assoluto è il classico derby da Inter. Sì, ma questi dipende, perché poi io, guarda, capito, al cuore, la grinta, la storia, il derby da Inter o il derby da Milan, io ci credo fino a un certo punto, perché poi questi sono bei ricordi, luoghi comuni, modi di dire, tradizioni, poi contano i giocatori e l'allenatore e la condizione atletica. Questi sono i 3 punti, tecnica, tattica e condizione atletica, giocatori, allenatore e preparazione. Ecco, su queste basi i giocatori l'Inter li avrebbe, ma non sono stati ben guidati fino ad ora e secondo me non sono stati anche atleticamente ben allenati fino ad ora. Forse nemmeno assemblati come si deve, mettendo a posto tutte le tessere del mosaico, ma questo è un discorso che trasciniamo da quest'estate e che temo per i tifosi dell'Inter si trascinerà almeno fino a gennaio, se non fino al giugno dell'anno prossimo. Grazie Sandro. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie Sandro Sabatini, mi scuso con Giovanni da Brescia, lo riprendiamo domani dopo le 14 quando torna Carlo Genta. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Torniamo domani dopo il GR delle 14. Have a nice day.